Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi è il primo giorno di scuola, attenzione, non per tutti gli studenti, ma per buona parte degli studenti italiani. In tante regioni si torna a scuola e oggi qua ad Essere Benessere vogliamo dedicare una finestra ai consigli per i genitori all'ascolto per affrontare nel miglior modo possibile queste prime giornate. Insomma, vogliamo vederci chiaro. E a proposito di vederci chiaro, nel corso della trasmissione, nella seconda parte, parleremo di vista insieme al dottor Scialdone, quindi rimanete con noi. Adesso qua in studio con me do il benvenuto ad Alberto Pellai, medico, ricercatore all'Università di Milano, psicoterapeuta, papà di Questa casa non è un albergo. Ciao Alberto, benvenuto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti e buona scuola a tutti. Senti Alberto, ti metto subito al lavoro perché vorrei che tu ci fornissi una sorta di vademecum per accompagnare i nostri figli a scuola, facendo attenzione a ciò che fa bene, evitando invece tutto ciò che può far male. Oggi è proprio una giornata importante. Io parlerei subito ai genitori che hanno i figli che vivono il loro primo giorno di scuola. Quella è proprio una giornata indimenticabile. Pensate al vostro primo giorno di scuola, rimane con voi per tutta la vita. Quindi è un giorno da rendere un po' speciale. Avrete già accompagnato i vostri remigini a scuola, ma c'è anche il primo giorno di scuola di chi va alle medie, di chi va alla scuola superiore. Spesso nello zaino, oltre ai libri, i nostri figli mettono molta ansia, molta paura, chissà se ce la farò, un sacco di domande sulla loro adeguatezza. Io vi invito a una giornata tranquilla, dove fate sentire i vostri figli speciali, gli fate sentire l'importanza del momento, ma con leggerezza. Devo dare proprio come consiglio di evitare gli interrogatori stile terzo grado. Quindi appena escono da scuola e li avete sulla macchina, che cosa hai fatto, che cosa ti hanno detto, sono simpatici i tuoi compagni. Ecco, se vi dovessi indicare forse la regola più importante, rispettate i tempi e, come per tutte le cose importanti dopo che le abbiamo vissute, i nostri figli hanno bisogno di uno spazio di decantazione. Lasciate che con tranquillità rientrino nella normalità della loro vita di tutti i giorni e aspettate, probabilmente saranno loro a volervi raccontare tante cose. Quindi tacere e ascoltare. Secondo me questo è un buon consiglio. La cosa che ai figli piace di meno, in particolare di fronte a passaggi che sono così intensi, è essere invasi da domande. Perché sapete perché non sono capaci di rispondervi? Perché ancora non hanno dentro di loro quelle risposte. È come se voi il primo giorno di lavoro tornate a casa e dovete tracciare una mappa a 360 gradi che spiega come sono i colleghi, che cosa si aspettano da voi, che cosa avete fatto. Troppa roba per il primo giorno. Alberto, quali sono i temi che ti sembrano più importanti? Quali fronti da presidiare? Allora, proviamo a dare quattro parole chiave. Una è il riposo. È molto importante, soprattutto in questa prima settimana, che i vostri figli riposino e dormano bene prima di entrare a scuola al mattino, perché stanno facendo un passaggio molto significativo dal tempo delle vacanze al tempo della fatica. Ecco, mi raccomando, questo vale anche per gli adolescenti. Le ricerche dimostrano che gli adolescenti dormono sempre meno ore di quelle necessarie e questo si traduce in un malessere. E tra l'altro sempre le ricerche dicono che il cervello dell'adolescente è talmente in trasformazione che ha un bisogno di sonno che è quasi simile a quello dei bambini nei primi 3 anni di vita. Quindi paradossalmente dormono sempre meno in un momento della vita in cui avrebbero straordinariamente bisogno di dormire di più rispetto al tempo della prima e seconda infanzia. Il sonno, quindi, come nutrimento, ma a proposito parliamo anche di alimentazione. L'alimentazione, il cibo sono grandi alleati non solo del percorso di crescita ma anche dei processi di apprendimento dei nostri figli. Curatela in modo particolare, evitando che mangino troppo o che mangino troppo poco. E siccome siamo alla vigilia dell'autunno, ancora un tempo per frutta e verdura fresca, non dimenticate che 5 razioni al giorno, oltre che essere alleate della salute, sono alleate anche dell'apprendimento e del buon funzionamento mentale. Si va a scuola con il corpo e con la mente e questa è una buona occasione per così aiutare i nostri figli ad avere un rapporto equilibrato proprio tra queste due dimensioni così importanti, mente e corpo. Perciò è fondamentale che, tornati a casa da scuola, i vostri figli abbiano siano attività che fanno stare bene il corpo, perché la mente l'hanno tenuta sotto lavoro e sotto esercizio per tutta la mattina. Evitate che si riposino guardando la televisione, siccome avremo ancora belle giornate in queste settimane di fine inizio autunno, fine estate inizio autunno. Cercate il più possibile di farli stare all'aria aperta, soprattutto dopo che hanno mangiato, e evitate che facciano subito i compiti. Lasciate proprio che abbiano un'ora di decantazione e di respiro, attività fisica all'aria aperta. Hai già citato una parola, compiti, Alberto. È una parolaccia. È una parolaccia, è una fatica anche per molti genitori. Ecco, dico soprattutto a voi che avete i bambini che entrano alla scuola primaria oppure che vanno in terza o quarta elementare, cioè momento in cui devono imparare anche a studiare le lezioni, cosa a cui non sono abituati. È fondamentale che i vostri bambini diventino autonomi in queste funzioni, e quindi evitate di stare al loro fianco invadendo tutti i loro spazi e dicendo voi come devono studiare, cosa devono fare. Puntate molto sulla loro capacità di organizzarsi. Compito molto importante e molto difficile anche per i ragazzini che stanno facendo il primo anno della scuola media inferiore o il primo anno delle superiori, cioè più che verificare compiti e lezioni, aiutateli ad acquisire uno schema per gestire le molte nuove lezioni e molti nuovi compiti che la nuova scuola propone loro. Alberto, noi adesso abbiamo dato giusto una spolverata a questi temi, perché domani li approfondiremo in una puntata speciale della trasmissione, dove riprenderemo le buone abitudini associate al secondo martedì del mese. Domani infatti ricominciamo con il consueto appuntamento con le mamme blogger, che naturalmente saranno qui per parlare del ritorno a scuola. Vi aspetto con le vostre domande, le vostre storie. Raccontateci come è andato il primo giorno di scuola dei vostri figli, quali paure avete, e noi avremo tanti consigli per ogni vostra richiesta. Se volete, potete cominciare anche ad anticipare il vostro intervento scrivendoci a essere benessere@radio24.it oppure andando su Facebook essere benessere radio 24. Allora ciao Alberto, io ti aspetto domani qui in studio con la tua cartellina, il tuo blocco degli appunti. Ci sarò, tra l'altro io oggi vedrò tornare a casa dal loro primo giorno di scuola tutti i miei figli, magari avrò tante storie di casa mia da raccontarvi. Mi raccomando, taci e ascolta, e domani ci riferisci. A domani. E in rete potete trovare tante informazioni. Io vi segnalo in modo particolare il sito del Bambino Gesù, qui dovete troverete tanti consigli. Secondo me è fatto molto bene, quindi partiamo con il piede giusto. Dei bambini noi ci siamo occupati, torneremo a farlo, come vi ho anticipato, domani con le storie dei diretti protagonisti. Adesso voglio occuparmi di un mio amico che è in linea. Saluto Leonardo Manera. Ciao Leonardo. Ciao Nicoletta, buongiorno anche agli ascoltatori. Allora, per raccontarla tutta, noi ci siamo sentiti nei giorni scorsi perché io da anni lo tormento perché voglio assistere alle prove di un suo spettacolo. Lui ne sta preparando uno, e questo voglio dirvelo, però al momento nicchia e non mi invita. Leonardo, no, sì. sono fuori Milano, quando tu hai voglia di fare un giro nelle Marche, per esempio. Lui va apposta lontano perché io vorrei rubare qualche cosa, i tempi ad esempio, no? Insomma, vorrei andare un po' a scuola. Però da tanto che lui non mi invita, io invece, pensate come sono generosa, mi occupo di lui, perché chiacchierando lui mi raccontava delle cose e ho detto no, senti, però devi in qualche modo parlarne con qualcuno. Lui ne parla con me, io naturalmente lo spiffero ai miei esperti. Tu mi raccontavi, Leonardo, che quest'estate sempre in macchina, spostamenti notturni, e facevi fatica. Ma il problema è che tornando spesso dagli spettacoli di notte, scusa, sta passando un'ambulanza. A proposito, non è un effetto che abbiamo. Italiana presto. Vabbè. E quindi tornando dagli spettacoli di notte mi capita di essere abbagliato dai fari che incontro e anche di vedere le luci un po' allargate. Questo mi crea una sensazione appunto fastidiosa alla guida. E allora, quindi non so se nell'ampio numero di medici a tua disposizione c'è qualcuno che possa darmi un consiglio in merito. Fammi un invito ufficiale al tuo spettacolo con date eccetera, allora, e io poi tiro fuori dal mio cappello. Il spettacolo nuovo il 7 novembre a Montemarciano nelle Marche. Va bene, io verrò, guarda vengo in prima fila e ti guardo. Senti, allora l'invito l'ho avuto e quindi me lo sono portato a casa e tiro fuori dal mio cappello, ma è qua in studio con me il dottor Antonio Scialdoni, Cantone, responsabile dell'unità operativa oculistica prima al Fate Bene Fratelli di Milano, qui per occuparsi di Leonardo Manera, ma anche per i miei ascoltatori che possono già chiamarci all'800 24 00 24. Dottore. Buongiorno a tutti e anche a Leonardo. Ora mi domandavo, mentre Leonardo Manera parlava, se questi sintomi ce l'ha da un po' o ce l'ha sempre più o meno avuti, adesso si sono accentuati. Ma li ho sempre più o meno avuti da quando ho cominciato a circolare spesso di notte, insomma. Ah, circolare di notte, quindi potrei pensare che probabilmente ha un leggero difetto di vista. Se mi dice che ha le luci che vede allungate, potrei pensare che potrebbe essere astigmatico. Sì, ho una componente anche di astigmatismo, sì. Ma vedi come ci prende, dottor Scialdone, eh? Beh, io adesso infatti mi tira a indovinare, non farò più l'oculista, ma farò i tarocchi che mi viene meglio magari. No, quindi consiglierei probabilmente a Leonardo di farsi ovviamente un controllo della refrazione, perché presumibilmente passati i suoi 25 anni, visto che io lo seguo da quando ne aveva 15 alla televisione, e allora probabilmente ha bisogno di una correzione, anche perché uscendo dagli spettacoli con tutte le luci di fronte sarà probabilmente abbagliato, affaticato. Oltretutto teniamo presente che quando ci sono impegni forti e concentrati, come può essere uno spettacolo, eccetera, va in giro molta adrenalina. E l'adrenalina fa bruciare e affaticare gli occhi. Veramente? Ecco, sì, naturalmente. Questa è una cosa assolutamente nuova, per me non la sapevo. Quindi bisognerebbe cercare di rimanere sempre calmi in qualsiasi momento della vita, non emozionarsi troppo. Ora questo è un derivato, secondo me diventa difficile, perché poi diventeremmo tutti dei, immagino, dei freddi computer o qualcosa dei del genere. Però ma questa adrenalina, che uno dice, no, una scarica di adrenalina che facesse male in qualche modo ai nostri occhi. Beh, certo, chiunque sia sposato e abbia avuto diverbi con il coniuge sa che quando i diverbi superano un certo, dopo un po' poi uno si sente gli occhi anche, come dire, un po' fuori dalle orbite, no? Sì. E la sensazione è quella, perché quindi la colpa è dei litigi alla fine, con la mia compagna, degli spettacoli alla fine, che andiamo sempre, si può sintetizzare così, diciamo. Però Leonardo mi raccontava, e questo è un classico di tutte le puntate quando ci occupiamo di vista, delle mosche sì, volanti. Questo è un, ecco, quello questo è un classico. È un classico. Mi capita di vedere questi puntini neri che partono dal basso oppure dall'alto e hanno un'andatura verticale, e mi succede soprattutto d'estate, magari al mare, insomma, quando vedo i paesaggi più forti mi capita di vedere quelle mosche. Diciamo che è una descrizione perfetta di quello che è la sintomatologia delle alterazioni del vitreo, cioè del gel che c'è all'interno dell'occhio e che con gli anni lentamente si scioglie. Anzi, approfitto per dire che in alcuni casi, ed è uno dei problemi estivi soprattutto, e adesso c'è il secondo periodo che è autunnale, magari lo diremo successivamente, in cui questa degenerazione del gel può avvenire, invece che lentamente, può avvenire improvvisamente, per cui in qualsiasi momento della giornata, al risveglio piuttosto che guidando, vediamo delle frasche invece che dei puntini, come vede Leonardo, e quindi ci spaventiamo, giustamente, perché il collasso di vitreo è avvenuto all'improvviso, come un soufflé che cade su se stesso. È un'immagine un po' inquietante, devo dire. Sì, sicuramente, ma è un motivo per cui un sacco di gente, giustamente, perché psicologicamente è un po', quindi, preoccupante, poi va al pronto soccorso, si fa vedere, ma nella maggioranza dei casi non ci sono conseguenze di tipo medico patologico, però sicuramente è una cosa che va tenuta presente. Ma tende ad andare verso una degenerazione procedendo con gli anni, visto che è già la seconda volta che mi dici che ormai sono vecchio, oppure abbastanza tranquillo? No, tende, tutti i vitrei tendono a sciogliersi lentamente, ma non necessariamente questi puntini diventano per forza tantissimi e peggio. Può essere benissimo che rimanga così, ognuno ha la sua storia, che in questo caso fa parte un po' del caso, diciamo, sostanzialmente. Quindi c'è speranza, diciamo. Dai, Leonardo, c'è speranza. Puoi continuare a lavorare al tuo spettacolo e andare in giro per l'Italia, venirci a trovare. E tra l'altro nello spettacolo nuovo c'è anche proprio un personaggio di un medico di pronto soccorso che ormai non ha più soldi per curare i pazienti, i soldi pubblici non ci sono più e quindi dice che le malattie vanno subite sostanzialmente. Bello quel personaggio lì, mi piace. Bello, sì. Dottor Scialdone, che dice? Abbastanza vicino alla potremmo realtà? Potremmo pagare facilmente uno stipendio a Leonardo perché in pronto soccorso si spacci per allora, un medico e dia dei consigli giusti. Dice che dà a tutti i pazienti delle palline Ziguli. Se il problema non è grave, quando tornano a casa guariscono da soli, altrimenti schiappano. Beh, colgo l'occasione per ovviamente per ricordare che in numerosi studi, non solo di oculistica ma anche medicina generale, i placebo, quindi la Ziguli della situazione, hanno effetti positivi talvolta anche nel 30% dei casi. Quindi... E anche per le persone anziane come me. E anche per le persone anziane come e non ci resta che sorridere perché sì. Comunque un sorriso al giorno le va il medico di torno. Leonardo, ti abbraccio, grazie e ormai sono invitata, Certo, grazie a te e grazie al dottore. In bocca buona al lupo. Giornata. Grazie. Allora, passato, presente e futuro. Dottor Scialdone, io vorrei tenere questo filo rosso per il continuare la nostra puntata di oggi. In fondo abbiamo parlato di passato, un passato recente, l'estate, alcuni sintomi, alcuni avvisagli, alcuni disturbi. Sì, uno il principale, diciamo uno dei più frequenti l'abbiamo detto. Ecco, fra l'altro una cosa interessante è che questi fenomeni di alterazione improvvisa del vitreo avvengono soprattutto in primavera, estate e poi nel tardo autunno. E poi cosa si fa? Si prende lo Ziguli come diceva Leonardo Manera o si, no, si deve fare qualcosa? Sostanzialmente ci si adatta, in qualche caso oggi abbiamo cominciato da un po' di tempo a operarli questi disturbi quando diventano molto molto in alcuni fastidiosi. Casi molto fastidiosi, ci sono alcune persone che non riescono effettivamente a leggere e scrivere perché hanno sempre queste ombre davanti, però diciamo che sono casi uno su mille, ecco, però sono interventi che si possono anche eventualmente considerare. Quindi pensate alle vostre vacanze, sintomi, disturbi che avete avuto, però noi parleremo di presente, perché magari in vacanza tutto è andato bene, si ritorna a lavorare, alla vita di tutti i giorni ed ecco che magari quel disturbo che avevamo dimenticato si torna a trovarci. Torna. Posso citare, tanto per far capire, il caso di una giovane signora che lavora in uno studio legale e fa un po' di pratica, questo quell'altro computer tanto tutto il giorno eccetera e mi dice sa dottore io adesso ho chiesto perché lavoro troppo ho chiesto il part time non ce la faccio più mi devono dare mezza giornata perché al computer non riesco più. Bene, si fa un controllo come si deve fare, la signora risulta ipermetrope, cioè difetto di vista di 3 diottrie. Quindi quando aiutatemi a dire 3 diottrie, cioè una quantità consistente, ed essendo lei una 45enne per vicino aveva bisogno di 5 diottrie. Teniamo presente che gli occhiali che troviamo già fatti in farmacia sono da più 1 a più 3. Quindi una volta che le si è messa davanti questa lente, lei ha riscoperto un mondo. Per cui era quasi dispiaciuta che non aveva più senso chiedere il part time. Quindi vede quanto sono preziosi questi oculisti. Noi parleremo anche, però vogliamo parlare anche di futuro. Lei dice appunto che questa paziente ha visto un nuovo mondo, quindi le si è aperto, no? Sono aperte nuove prospettive. Futuro, che per noi significa spesso, vi suggeriamo controlli. Solito noi li rimandiamo. Sì. Dai, quando torno dalle vacanze vado a farmi controllare. O magari anche interventi. Penso agli interventi di cataratta, penso agli interventi di chirurgia refrattiva per buttare gli occhiali alle ortiche. Passato, presente e futuro. Proviamo a fare un check della nostra vista, una sorta di autodiagnosi e capire se dobbiamo andare dall'oculista, anzi facciamo il passo prima, parlarne con il nostro medico di base. Questo è l'iter, vero dottor Scialdone? Sì, se abbiamo qualche disturbo che non riusciamo a capire sicuramente, ma potremmo anche dividerlo diciamo per età. Cioè, sono un giovane al di sotto dei 30-35. Noi praticamente. Sì, ma certo, io ancora sono entrato in questa fascia e ho un po' di difetto di vista, magari sono miope. Anche quest'anno mi sono messo gli occhiali e le lenti a contatto, sono andato a fare il bagno al mare, non vedo, devo segnarmi i colori del bagno per tornare indietro, perché se no sbaglio completamente l'approdo, oppure faccio surf e così gli occhiali mi schizzo tutto, mi dà fastidio eccetera. Magari potrei considerare effettivamente che di consultare uno specialista per fare un intervento chirurgico e vedere se sono adeguato. Sono invece un 45enne o un 50enne con la zia e la zia materna e un altro parente che hanno il glaucoma, e vedo che mettono i colliri, sono un po' in difficoltà eccetera. Magari quest'anno mi decido e faccio una consulenza per vedere se effettivamente anch'io sono a rischio, oppure posso stare più tranquillo, perché questa roba che ogni tanto li sento e mi dà fastidio perché so che sono teoricamente maggiormente predisposto, perché il glaucoma è una malattia genetica, è una spina nel mio animo. Sono un 60-65enne e sono invece al mare, usciamo la sera, guidiamo eccetera, e il mio amico architetto mi dice sempre: ah, guarda quel ristorante lì giù. E io dico: ma ristorante dove? Lì giù? Sì, no, aspetta che ci avvicini. Ah sì sì, quello lì. Ma in realtà non è vero, lo vedo ma non lo vedo, blefo, tanto facciamo sempre quello che vuole lui. Magari mi vado a fare un controllo per vedere se ho un inizio di cataratta, che diventa... che potrebbe essere una cosa magari all'inizio, e magari guardo se mi scade la patente, che sempre è un occhio alla scadenza della patente, bisogna sempre darla. Io do un occhio agli ascoltatori che sono in linea. Abbiamo Maurizio dalla provincia di Milano. Maurizio, buongiorno. Buongiorno a lei e al dottor. Dunque, il mio problema è questo: quando mi siedo sul divano e guardo la televisione di sera, mi escono dei fasci di luce arcobaleni dalla televisione e arrivano ai miei occhi, e così vedo passato logicamente le immagini che sono alterate da questo fascio. Volevo cercare di capire da che cosa poteva dipendere, qual era la causa. Dottor Scialdone. Beh, ma senza dolore immagino. Maurizio, dolore no? Leggerissimo dolore. Un fastidio all'occhio, sì, destro. Esatto. Importa sapere se la televisione la guardiamo in una stanza con la luce o senza luce, dottor Scialdone? Sì, potrebbe essere anche utile che il nostro amico faccia effettivamente un controllino, perché se c'è una sensazione di dolore soprattutto di sera, anche se modesta, lui potrebbe avere un aumento della pressione oculare serale. Tutto il discorso dell'arcobaleno va un po' interpretato in questo senso. Diciamo, l'alternativa più banale e semplice è che faccia ovviamente un controllo per un occhiale, perché magari è anche lui un po' astigmatico e ha bisogno di una correzione. Ecco, dottore, a proposito di correzione, al ritorno al lavoro, molti, lei prima ha fatto una divisione per anni, facciamo finta che una signora o un signore dopo i 40 anni è andato in vacanza, ritorna e vede che fa più fatica a leggere il giornale, deve allungare le braccia, fa più fatica a vedere il computer, insomma la sua presbiopia, così si chiama, certo, è aumentata, peggiorata. Ecco, innanzitutto diciamo che non è un difetto, ma è un decadimento fisiologico, no? Sì, diciamo che fa parte delle attese della vita, come la crescita dei figli, anche questo. Quello che bisognerebbe fare forse è né sotto né sopravvalutare la cosa. All'inizio io consiglio sempre, all'inizio vuol dire 44, 46, 48, consiglio sempre di tenersi l'occhialino da vicino come una stampella di supporto, e quindi lavorare finché ci si fa, e quando non ci si fa più, nel senso che la vista proprio cede, e a quel punto tirare fuori l'occhialino. Questo serve a mantenere una certa elasticità muscolare nel corso degli ultimi anni di non presbiopia, diciamo. Ovviamente chi è già più avanti già conosce il problema quindi non direi che non c'è sicuramente da allarmarsi, ma da entrare nell'ottica che poi ci sono gli occhiali bellissimi oggi, quindi sì, poi nascondono anche un po' le zampe di gallina, le occhiaie, le borse, in qualche modo insomma ci arrangiamo, però quello della presbiopia è un piccolo problema dai grandi numeri. C'è qualche cosa di nuovo per chi insomma non vuole accettare questo impaccio degli occhiali? Si è parlato di chirurgia, si è parlato sì. di lenti particolari, ma al momento che cosa possiamo al fare? Momento, di diciamo, sicuro, ecco. Di sicuro chi è leggermente miope e vuole fare una correzione, può fare una correzione diversa fra i due occhi, quindi fare quella che viene chiamata monovisione, per cui può aggiustare un occhio per lontano e un occhio leggermente più per vicino, e con questo riesce a fare a meno degli occhiali, non sicuramente per 8 ore di computer, ma per un sacco di cose quotidiane. Dal punto di vista laser, che è quello che tutti aspettano e aspettiamo, perché ovviamente, come hai detto, ci sono milioni di persone in attesa, ancora non c'è un intervento sicuro. Ci sono dei programmi su alcuni laser che però lasciano insoddisfatte una percentuale di persone troppo elevata per considerarli una cosa di routine. Quindi da questo punto di vista consiglierei di aspettare un po'. E noi abbiamo aspettato, ma in linea con noi, il professor Silvio Maffioletti, coordinatore del progetto di ricerca sulla visione e la sicurezza stradale del Dipartimento di Scienza dei Materiali dell'Università degli Studi Milano Bicocca. Buongiorno a lei, benvenuto. Buongiorno Nicoletta. Allora, parliamo di chi, tornando a lavorare, si affatica, tante ore al computer. Devo dire che i miei ascoltatori mi stanno scrivendo al 349-238-6666, ma potete farlo, come mi ricorda Laura Vanossi, di ricordarvi anche sulla pagina di Facebook. Mi chiedono quanto l'utilizzare il computer tante ore al giorno possa in qualche modo aggravare un disturbo visivo e quindi, oltre che ad affaticare gli occhi, a peggiorare la miopia o la presbiopia. Innanzitutto, professor Maffioletti, io volevo chiedere a lei di darci qualche istruzione per l'uso del computer, perché sappiamo che al computer noi non ci stanchiamo, non ammicchiamo più, manca l'ammiccamento e quindi l'occhio in qualche modo ne può un po' soffrire. Ma aspettiamo consigli, noi siamo qua davanti pronti per prendere appunti. Consigli ne possiamo dare alcuni relativamente al fatto, anzitutto, come ha detto il dottore, è una condizione fisiologica, non è una malattia, non è preoccupante, però fa parte della vita. In questo frangente bisogna adottare un occhiale, questo occhiale al computer permette di ripristinare una buona visione, di stare a lungo senza problemi, però dà anche alcuni problemi, ad esempio nel presbite l'occhiale comporta una riduzione della visione a distanza, cioè io metto l'occhiale, guardo bene il computer, lo vedo a fuoco, alzo lo sguardo, vedo sfocato. E quindi, come diceva il dottore, ci vorrebbero due occhiali, uno per vicino e uno per lontano. Qualche anno fa sono uscite le lenti progressive, lenti che permettono la visione a tutte le distanze e quindi consentono a chi lavora a terminale, ma anche in ufficio, di alzare lo sguardo e vedere bene a distanza. Hanno alcuni limiti però, riducono lo sguardo in visione laterale e quindi obbligano a spostare di più il capo e a regolare la testa in flessione e in estensione per cercare la zona opportuna per guardare la distanza del computer. Da pochi anni sono uscite delle lenti che sono proprio ottimali per chi lavora a terminale, si chiamano lenti a profondità di campo, sono composte da due zone, una con un potere dioptrico più forte, che va bene per leggere il libro, per guardare il cartaceo che abbiamo sulla scrivania, e una nella parte alta della lente, che sono più opportune per una distanza maggiore, quindi dai 60 cm fino ai 2 metri. E il computer in genere, la postazione fissa è dai 60 agli 80 cm, per cui noi con queste lenti possiamo abbassare lo sguardo, vedere a fuoco il cartaceo, alzare lo sguardo, vedere il video, guardare le persone attorno, senza per questo dover avere posizioni viziate del capo o cercare la zona opportuna e quindi avere delle posture errate che possono provocare dolori al collo e alla schiena. Dottor Cialdoni, le piacciono? Sì, sono, credo che, se non sbaglio, queste profondità di campo vengono chiamate da molti ottici, vengono chiamate office per promuoverle o per spiegare chiaramente meglio a cosa servono, giusto, professor Massimo Ferretti? Sono poche conosciute, proprio perché sono state introdotte da poco e non tutti le spingono con la dovuta convinzione, ma sono un occhiale tipicamente e specificamente da lavoro. Ecco, da mettere, da lasciare al lavoro, perché ecco, io adesso che sto comprando questi usa e getta, il dottor Scialdone ride tutte le volte perché li perdo in continuazione. È più getta che usa. È più getta che usa, infatti. Dobbiamo metterle vicino al terminale. Allora, professor Mafioletti, alla guida, a che cosa possiamo fare attenzione? Lei ci ha consigliato questi, quando siamo al computer, lavoriamo al terminale, questi occhiali. Certo che non possiamo continuare a prendere un occhiale per la guida, uno per il terminale, uno per leggere, un altro per andare a trovare l'amica. Cioè, che cosa si può fare? La guida è un'attività importante, sociale, che comporta responsabilità, che comprende dei rischi. L'abbiamo studiata a lungo proprio in questi due anni in università attraverso una ricerca che il CDV ci ha affidato, il Comitato Difesa Vista, e che abbiamo portato a 980 persone. Abbiamo visto molte persone. Sono emersi dei dati abbastanza indicativi e interessanti. Uno, la visione è abbastanza correlata con l'incidentalità, cioè coloro che hanno numerosi incidenti sono anche coloro che hanno un sistema visivo non adeguato. E per sistema visivo non intendo solo vedere 10 decimi, ma una ventina di test che abbiamo fatto ci hanno evidenziato altre abilità importanti: muovere gli occhi, avere una visione binoculare stabile, avere un'attenzione prolungata. Quindi questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, molte persone anche con una visione non adeguata circolano convinte di essere adeguate perché hanno superato l'esame di controllo, quello che facciamo ogni 5-10 anni. Cioè questo esame è molto sopravvalutato e spesso permette a persone che non sono nelle condizioni ottimali di dire: ma io ho passato l'esame, quindi sono a posto. Quindi molta attenzione a non fidarsi solo di quell'esame, ma a fare dei controlli periodici dagli specialisti per gli aspetti anatomopatologici e dagli specialisti rifrattivi per vedere se l'occhiale va bene. Seconda cosa, avere attenzione soprattutto nella guida notturna, perché la guida di notte comporta per l'occhio una funzione diversa, utilizziamo dei fotorecettori diversi e quindi siamo un po' meno pronti, possiamo essere abbagliati, siamo in condizioni di essere meno attenti a certe situazioni, e quindi l'occhiale adatto, evitare di fissare i fari quando si incrociano le auto, ma guardare il margine esterno destro della strada, essere in condizioni psicofisiche ottimali, evitando il cellulare soprattutto di notte, e segnalare subito se si vedono i fari delle auto doppi, una condizione che si chiama diplopia e che prelude in certi momenti, soprattutto di stanchezza, a una maggiore vulnerabilità. Dottor Scialdone. Ma chiederei, invece suggerirei da ascoltatore, chiederei al professor Mafioletti cosa consiglia per ridurre l'abbagliamento, anche di giorno, di notte forse un po' più difficile, per le persone che non hanno difetti di vista ma che comunque hanno fastidio alle luci. Spesso succede, come mi scrive Mauri: Nicoletta, faccio il camionista, la luce mi dà fastidio, vanno bene gli occhiali da sole? Una risposta, un'indicazione, perché così noi andiamo avanti con il nostro prossimo ospite, professor Mafioletti. Sì, un'indicazione veloce: vanno bene gli occhiali da sole purché siano di qualità, quindi lenti testate, lenti di qualità che proteggono dagli ultravioletti, e per chi guida a lungo, lenti polarizzate, cioè lenti che eliminano i riflessi, soprattutto nelle giornate di pioggia, che permettono di vedere meglio i contrasti e di avere maggior sicurezza. Quindi occhiali da sole di qualità, lenti polarizzanti per chi guida a lungo e controlli frequenti dallo specialista. E sempre Radio 24 che vi accompagna, così, no? State sempre attenti, vi voglio. Professor Mafioletti, grazie, buona giornata. Buona giornata. Marina da Roma, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo fare questa domanda. Io non ho particolari problemi di vista, ho 53 anni, sì, però da diversi anni ho un problema che mi lacrimano gli occhi, sì, alternativamente, o l'uno o l'altro, non insieme. E ho fatto tanti controlli, anche il canaletto, si pensava che fosse chiuso il canaletto lacrimale, invece no, Allora, Marina, il problema è chiaro. Noi, tra l'altro, Marina, nel nostro archivio abbiamo proprio dedicato delle puntate intere all'occhio rosso, all'occhio che lacrima, alla secchezza oculare. Il dottor Scialdone fa rapidamente un recupero, perché poi andiamo sui controlli, perché anche i nostri bambini adesso abbiamo aperto proprio con il primo giorno di scuola e tornano nei banchi, sui banchi di scuola. Dottor Potrei Scialdone. Pensare che se i canarini lacrimali sono a posto, che possa essere iperreattiva all'ambiente, che quindi una sorta, diciamo così, di allergia che potrebbe avere un'influenza di questo tipo, oppure potrebbe avere dei problemi al naso e quindi bloccare il canaletto, quindi potrebbe anche fare eventualmente una visita otorino per verificare, perché le lacrime sono sempre lì, certo, finiscono. Tutto lì vicino, esatto. È dal vicino di casa. Saluto il professor Paolo Nucci, professore di oculistica all'Università di Milano, all'Ospedale San Paolo. Professore, buongiorno. Buongiorno, Nicoletta. Noi ci siamo occupati insieme al dottor Scialdone degli adulti, dei genitori, ma vogliamo occuparci anche dei bambini che tornano a scuola, ed è proprio di questi primi mesi, no? Il bambino, un classico che il bambino, il ragazzino, torni a casa e inizia a dire: mamma, non vedo bene alla lavagna, mi sembra di non vedere bene da un occhio. E allora si inizia, allora avvicinati alla lavagna, spostati dalla lavagna, e insomma i genitori spesso sono preoccupati spesso ha ragione. Mi è venuta in mente una condizione insolita, ma non rara, se vogliamo una condizione inattesa, che noi oculisti pediatrici e più ancora i genitori incontriamo proprio all'inizio delle scuole, e che vorrei segnalare a te e anche agli ascoltatori. Sì. A volte il bambino che ritorna a scuola o che ha il primo impatto con questa realtà, che è meno ludica, della scuola materna, lamenta un disagio. A volte un finto mal di pancia, a volte un finto mal di gola, a volte un mal di testa, a volte una delle cose che riferisce di non vedere bene. Attenzione, che non voglio dire che il problema non esista della visione ridotta in età pediatrica, anzi sottolineiamo l'importanza di controlli precoci a questo punto presso gli oculisti. Però voglio sottolineare che quando il problema è solo riferito e non troviamo alcuna obiettività, dobbiamo prendere in considerazione l'idea che il problema sia simulato. La settimana scorsa una mamma molto preoccupata di un bambino che frequenta la quarta classe di una scuola inglese, che ha già cominciato il suo corso, mi ha portato il bambino che diceva di aver avuto un improvviso calo visivo in un occhio e si comportava di conseguenza, cioè non riusciva a leggere né da lontano né da vicino, non riconosceva i colori e sembrava non percepire neppure il movimento della mano. Allora, un test banale, ma non voglio banalizzare, ma un test banale che il genitore in queste condizioni può eseguire è quello di porre uno specchio davanti al bambino e chiudergli l'occhio buono. A questo punto bisogna assicurarsi che il bambino stia fissando il proprio occhio aperto, che lui dice essere malato, e spostare lentamente lo specchio. Se il bambino continua a fissarsi l'occhio, vuol dire che la percezione è piuttosto buona. E certo. Perché è convinto lui, fissandosi, di non muovere l'occhio, però di rimanere fermo. Adesso ci sono molti test, noi oculisti, soprattutto chi si occupa di bambini, sa quali sono e come devono essere interpretati. Ma quello che è importante è comprendere che questi bambini lamentano un disagio, quindi forse non vale neanche la pena di affrontarli, non so, redarguirli, stai fingendo, cose del genere. Bisogna invece ascoltarli, altrimenti il bambino riferisce il suo problema ad altro. Certo. Il mal di pancia, il mal di testa e tutto il resto. Una ultima cosa, oltre a salutare Antonio Scialdone, devo dirla. Sì. Speriamo che queste ricerche importanti portino anche ad una riduzione dei costi degli occhiali, perché le lenti progressive costano tanto. Sì. E questo per la ricerca ci aiuti. Che la ricerca ci aiuti. Dottor Scialdone, professor Nucci, grazie per essere stati con noi. Grazie a voi che mi avete seguito. Potete seguirmi, mandarmi una mail, andare su Facebook, ma soprattutto tornare domani ad ascoltarmi dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Garbone. Essere e benessere.